Ciao Marika. Ciao. Buonasera. Buonasera, come stai? Bene. Tu? Spero bene. A bomba. Ci stiamo, tutto a posto. Ho benissimo. Ciao Radio Risacca. Bentornati, bentornate al nostro sesto appuntamento. Olè. Di Cemento e Curcuma. Oggi vi parleremo di un fantastico fiorellino dal color rosa, tendente anche al violetto, molto fashion, fashion style, dal nome Malva. Sì, della famiglia delle Malvace, ok, anche detto Melba, Madrignola o Marva, soprattutto dai bellissimi romani. A Marva! Sei proprio una bella Marva! No, ma raccoglie un po' di Marva. E il nome deriva dal latino mollire album. Ovvero? Rendere molle. Molle. E questo già racconta lunga sui suoi benefici, proprietà. Molto lunga! E sappiamo anche che la sua fantastica particolarità è che segue lo spostamento diretto del sole, che significa che come si gira il sole, la malva gli va dietro, gira con sé, con lui. Ok? Ok. Ok. Senti, passiamo ai suoi principi attivi, va? Quali tra i più importanti? I principali importanti in grandissima quantità sono le mucillagini. Ok. Poi troviamo i flavonoidi, gli antociani, okay, e i tannini. Ok. Tra i quali la malvina e la malvidina. Ok. Che conferiscono alla pianta le proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Perfetto, quindi una bellissima pianta. E possiamo scoprire insieme oggi come preparare un fantastico decotto e soprattutto a cosa serve. Principalmente serve a decongestionare le mucose intestinali e gli altri apparati. Okay? Le mucose degli altri apparati. Esatto. Totali. Totali. Tutti gli apparati, tutte le mucose di tutti i vostri apparati. Ok, sopra, sotto, destra e sinistra. Questo vi risanerà tutto. Qualsiasi infiammazione c'è a livello della mucosa, diciamo. La malva va benissimo. Sì. Poi, e anche in caso di stitichezza, di coliti, di gastriti, di bronchite e anche di tosse stizzosa. Quella tossetta che ogni tanto... La tossetta stronzetta. Esattamente. Proprio quella che quella stronzetta mangia, che quando arriva... È proprio così. Allora, scopriamo... Ecco, questa tossetta. Scopriamo come possiamo fare un bel decotto per sprigionare tutti i suoi principi attivi. Ok? Vai Alice, illuminaci. Allora, prendiamo una tazza d'acqua, un cucchiaio di fiori e foglie bello colmo, okay, li mescoliamo bene insieme e li mettiamo sul fornello. Okay. Ricordiamo che i fiori e le foglie si possono raccogliere da giugno a settembre prima della fioritura completa. Ok, quindi da adesso fino a settembre, approfittatene, ne è uscita tantissima. E la trovate spontanea ovunque, in qualsiasi prato, in qualsiasi terreno, altitudine, no, proprio un fiore, una pianta versatile che trovate ovunque dove voi volete. Quindi, dicevamo, portiamo in ebollizione e... Poi mettiamo tutto all'interno di un pentolino, portiamo ad ebollizione. Una volta che l'acqua bolle, spegniamo subito, okay, dopo circa un minuto, copriamo e lasciamo riposare, lasciamo in infusione per 20 minuti. Olè, il vostro decotto è pronto! E... Ta-da! E sapete anche che questo decotto lo potete usare come emolliente e anche tante funzioni curative sulla vostra pelle. grazie al suo contenuto di vitamine e sali minerali ed è soprattutto indicato per i soggetti che soffrono di cuperose. Alice, cosa sono le cuperose? La cuperose sono quelle macchiette rosse che vediamo sulla pelle causate dallo scoppio dei piccoli capillari. Ok, quindi si possono fare degli impacchi freddi sulla pelle, giusto? Sì, soprattutto freddi. Soprattutto freddi. E si possono usare l'infuso e il decotto anche in caso di afte e stomatiti, che più o meno sono la stessa cosa. E possiamo fare dei sciacqui, giusto? Quindi sì, usarlo, sciacquare il cavo orale. Le mucose del cavo orale. E ristiamo sulle mucose. È una pianta magica per le mucose, eh? Cistiti, gastriti, infiammazioni di qualsiasi tipo di mucose, quindi anche quando siamo influenzati abbiamo il raffreddore. Perfetta. Wow, quindi una pianta che possiamo usare per spiazzare. Sì, per sfiammarci tutto. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno di sfiammare, questa pianta sfiamma. Senti, Marica, dacci un po' di informazioni. Di informazioni curiosissime, curiosose. Abbiamo scoperto che secondo i nostri antichi alchimisti era sotto l'influenza di Venere questa pianta, quindi molto legata all'aspetto femminile, all'aspetto donna, e per questo era un rimedio adatto a preservare la bellezza e la cura della pelle. Quindi donne, approfittatene, è arrivata la malva, quindi fatevi dei bagni di malva, fatevi dei decotti di malva, delle infusioni. E è un fatto anche molto interessante, questa pianta è capace di far fronte, giusto Alice? Sì, sia al caldo che al freddo, cioè resiste sia alle temperature alte che alle gelate. Okay. E questo la rende adatta a diversi tipi di disturbi. Quali? Soprattutto disturbi opposti, ad esempio la stipsi e la diarrea, che sono completamente opposti ma tipici tutte e due della sindrome del colon irritabile. Ok, ad esempio. Quindi se avete il colon irritabile potete usarla. Che non è piacevole. Che non è piacevole e non solo. È orribile. Usate la malva, è fantastica, è bellissima, dai suoi fiorellini rosa violacei. E abbiamo scoperto anche che la possiamo usare anche per guarnire i nostri piatti freddi, visto che sta arrivando l'estate, adesso abbiamo bisogno di rinfrescarci. Possiamo aggiungerle alle nostre insalatone miste per dare un tocco di colore. Oppure, per esempio, come ho fatto io l'altro giorno, ho fatto una vellutata fredda di rape rosse con formaggio caprino, tutto a freddo, poi olio, aglio, menta, aglio, menta, pepe nero e sale. Una vellutata sarda. Mixate tutto, ok? Velocemente col vostro mini pina. E poi potete metterci come guarnizione dei fiorellini di malva per dare così un tocco magico e solare al vostro piatto. E oggi se magna. Olè. E adesso ragazze e ragazzi, vi lasciamo una fantastica ricettina cosmetica semplice che potete fare a casa, in viaggio, dove volete, dura a qualsiasi temperatura. E vi lasciamo l'olio balsamo pre-shampoo al cocco. Ok? Andiamo, sì. Vai Alice. Ci servono come ingredienti 100 ml di olio di cocco. Ok, e ce li abbiamo. Olè. 100 ml di olio di girasole, okay, preferibilmente spremuto a freddo. Ce l'abbiamo. Olè. 10 gocce di olio essenziale di arancio. Olè. Olè. 5 gocce di olio essenziale di geranio. Olè. 5 gocce di olio essenziale di lavanda. Okay. Allora, gli oli essenziali, se li abbiamo, li usiamo tutti e tre. Se non li abbiamo, possiamo anche usarne uno in quantità maggiore. Ad esempio, okay, ho l'olio essenziale di lavanda, ci metto 15-20 gocce, okay, e ciao. Così compariamo con gli oli essenziali che non abbiamo, giusto? Esattamente. Come la facciamo? L'olio di cocco lo troviamo spesso solido. Ok. E quindi lo dobbiamo far fondere a bagnomaria. Sì. Perché sennò perde tutte le proprietà. Esatto. Appena ha cominciato a sciogliersi, cioè aggiungiamo l'olio di girasole, okay, mescolando sempre energicamente. Mm-hmm. Togliamo tutto dal bagnomaria e aspettiamo un po' di tempo in modo che, certo, la temperatura scenda un pochino, e aggiungiamo gli oli essenziali. Perché ricordiamo che l'olio essenziale ha una temperatura superiore di 38 gradi, evapora, quindi perde tutti i suoi effetti. Esattamente. Quindi se abbiamo la possibilità di avere un termometro, anche quelli da cucina, lo possiamo usare. Se no, aspettiamo che stiepidisce un po'. Quando è tiepida, possiamo aggiungere gli oli essenziali. Allora, il consiglio è quello di continuare a mescolare anche una volta levato dal bagnomaria. Ok. Se noi continuiamo a mescolare energicamente, possiamo anche fare un cambio di recipiente, in, certo, modo che la temperatura scenda più velocemente, quindi dopo un quarto d'ora, 20 minuti, aggiungiamo gli oli essenziali. Certo. Travasiamo tutto in una bottiglietta di vetro. Ok. Preferibilmente scuro, se non lo abbiamo scuro la copriamo dai raggi solari con la carta di alluminio. Certo, la teniamo comunque in luogo fresco e asciutto, a riparo dai raggi. Per questo consigliamo sempre delle bottigliette di vetro scuro. Ma se non le avete di vetro scuro, possiamo usare anche quella dell'olio. Le bottigliette piccoline dell'aceto, comunque così. Se non le abbiamo in quel momento, possiamo appunto ricoprirle o tenerle dentro un mobiletto a riparo dalla luce, perché la luce comunque può compromettere il nostro preparato e soprattutto gli oli essenziali. Soprattutto, sì, l'olio essenziale. Ok. Questa bottiglietta ben chiusa si conserva a temperatura ambiente per circa 6 mesi, diciamo. Quindi lunga durata, approfittatene, potete farne e usarne quanto volete. A mio avviso anche per più tempo. Ok. Perché gli, sì, oli comunque sono conservanti e l'olio essenziale è usato come conservante all'interno delle creme, quindi è tutto dire, è indicativo questo. Sì, dipende da come voi lo conservate, quindi, esatto, dai 6 mesi, per un minimo di 6 mesi, a un massimo di 2-3 anni, se è ben conservato. E come lo usiamo? Allora, applichiamo il balsamo a seconda della lunghezza dei nostri capelli, indicativamente da 1 a 3 cucchiai, okay, sui capelli asciutti. Lo distribuiamo uniformemente dalle radici fino alle punte, con l'aiuto, okay, di un pettine o come vogliamo noi. Poi avvolgiamo i capelli in un asciugamano e lasciamo agire per circa mezz'ora. O anche dentro una cuffia da doccia li potete mettere, se non avete un asciugamano al momento. Oppure vi è scomodo, potete mettervi una bellissima cuffia con fiorellini. Olè. Olè. Che carina. Poi laviamo i capelli con cura, con uno shampoo a base di tensi attivi a vostra scelta, nel senso che non deve essere super aggressivo, ma neanche una saponetta, come, esatto, faccio io, perché sennò vi rimane tutto l'olio di cocco, che è abbastanza pesante, sui capelli. Ok. Allora, le proprietà. Vai. Allora, è perfetto per i capelli secchi, per quelli ricci e per quelli crespi. Ok, quindi se avete problemi di secchezza, se avete dei ricci ribelli o se avete dei capelli crespi perché avete fatto magari troppe tinte, li avete un po' stressati, li ammorbidisce, li lucida E questo balsamo serve anche a ridare forza e corpo ai capelli stravazzati dai trattamenti sbagliati, appunto come tinte dei colori più esagerati, dai bagni del mare e di quelli in piscina. Quindi per tutta la vostra vita potete... soprattutto per questa stagione, soprattutto dove il sole è più forte, il sale del mare, eccetera, il cloro della piscina... Esatto, le tinte sbagliate. Abbasso le tinte, no, sì, viva le tinte, viva i capelli. Tanto poi ci facciamo il balsamo e quindi ci rigenera tutti quanti, va bene? Sì, comunque fa miracoli, questo lo possiamo promettere, ve lo giuro. Non vende sogni, ma solide realtà. Va bene. Ok. Ragazze, ragazzi, speriamo che vi sia piaciuta la nostra sesta puntata. Speriamo sempre in ascolti maggiori. E adesso vi lasciamo la perla della settimana dalla nostra saggia preferita. Ok? Vai saggia, a te l'onore. È rimasto l'odore della tua carne nel mio letto. È calda così come la malva che ci teniamo ad essiccare per i dolori dell'inverno. Wow! Oh. Brava! Oggi la nostra saggia si sente particolarmente focosa. È iniziata l'estate. È tutta un fuoco. E c'ha bisogno di un decotto di malva, vista la voce. Una voce un po' ranca. Grazie, saggia. Sei sempre fantastica. Arigato. E ragazze, ragazzi, noi ci salutiamo adesso. Già. È finito il nostro sesto appuntamento, speriamo che vi sia piaciuto. Fateci sapere, provate le nostre ricettine, ok? Ciao Radio Isacca, ciao Alice, ciao Marica, baci, ciao!